il respiro e poi fa piangere. È solo una marcia realtà. Uccisioni di massa sono solo notizia che ingrassa i mass media. Si arricchiscono cose sfruttando una marcia realtà. Vedi nello schermo sangue bude la qua e là. Togli il bagno per vomitare, a dimostrare che è un'orribile visione. Per dimostrare che è un'orribile visione. Orribile visione, lasciami in pace perché io sto bene, non voglio vivere con te. Sai che turbi la mia semplicità, le mie idee di serenità. Non voglio conoscere chi soffre e chi morirà. Voglio vivere serenità. Ma la visione resta in tutti, poiché il mondo è una merda. La colpa è anche di te. Sei che spegne la TV in orribili azioni. Sei che te ne freghi se muore una nazione. Sai che te ne freghi se muore una nazione. Basta il mondo, basta orribile visione.